e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, buona giornata a tutti. Ogni promessa è debito. Per cui, siccome una settimana fa abbiamo detto che saremmo ritornati sul tema del condominio, perché un tema che stavamo affrontando in realtà l'abbiamo dovuto lasciar fuori. Eccolo. E noi siamo pronte qua a rispettare naturalmente le promesse fatte. Quindi stamattina parleremo di vita di condominio, soprattutto dei condomini e dei condomini d'agosto. Cosa fare e cosa non fare per lasciare queste case che naturalmente si sguarniscono un po' per la stagione estiva, ma quali sono gli adempimenti dell'amministratore? Ma non sono tutti a carico dell'amministratore, perché anche il condomino naturalmente deve andare via lasciando la sua casa a posto e magari anche qualche consegna o al vicino di casa o a chi per lui. E proprio dal condominio, Deborah, parto per raccontare agli amici che ci stanno ascoltando il tema della seconda parte di Cuore Denari, perché proprio l'altro giorno in ascensore ho incontrato due persone che dopo un frettoloso saluto hanno riportato subito il loro sguardo sui propri smartphone. Cioè, non riusciamo a liberarcene neanche in ascensore, segno che si è sempre più attenti, l'avevamo già raccontato qualche puntata fa, a cosa scorre sul telefonino piuttosto che chi sia di avanti, persone comprese. Ma Deborah, oggi vorrei con te fare un passo in avanti, e non lo dico a caso. Secondo uno studio pubblicato su Plus One, lo smartphone cambierebbe il nostro modo di camminare, purtroppo non in meglio. Ma noi vogliamo, come sempre, giocare d'anticipo e tirarci anche un po' sul morale, sapendo che affronteremo questo tema con due grandi esperti, la dottoressa Laura Bertelé e il professor Luca Vagnina, con cui riprenderemo un po' il nostro apparato muscolo-scheletrico e articolare e lo rimetteremo in quadro. A tra poco, quindi. Partiamo come sempre con una velocissima rassegna stampa che riguarda i mercati finanziari, perché oggi è una giornata da tenere sotto osservazione accuratamente. Intanto abbiamo un quadro negativo fra le borse europee, con Milano che perde mezzo punto percentuale, perde un po' di più delle altre piazze. Perché oggi monitoriamo questa giornata? Perché arriva il dato sulla disoccupazione statunitense di giugno, il dato come sempre arriva nel pomeriggio, ma soprattutto da qualche giorno stiamo ritornando ad osservare un forte fermento e nervosismo sul mercato obbligazionario. Ieri c'è stata una forte vendita su tutti i titoli di Stato del vecchio continente, qualcuno l'ha chiamato il giovedì nero dei governativi, e anche stamattina un po' la tensione si manifesta con il differenziale di rendimento fra il BTP italiano e il Bund tedesco, e cioè il famigerato e famoso spread, indicato a 170 punti base. Monitoriamo questa tendenza perché noi ci ricordiamo ancora una volta di quello che è successo qualche anno fa, già qualche segnale si vedeva a fine luglio. Non vorrei che rifinissimo di nuovo con uno spread a 500 punti come nel 2011. Vabbè, a parte gli scherzi, siamo naturalmente molto distanti da questo livello, però sono sempre temi da tenere in stretta osservazione. I migliori titoli di Milano, Jux, Net-a-Porter e Terna, guadagnano mezzo punto. I due peggiori, Mediaset ne perde 3, Tenaris perde 2 punti percentuali. Chi è? C'è l'idraulico, signora. Ah, lo faccio entrare, Lucia. Buonasera, signor Sostagliaro. Come mai è arrivato così in ritardo? Ho infrosciato la macchina, li mortacci loro, addo sta accesso. Di là, venga che l'accompagno. Dovrebbe cambiare la guarnizione della doccia. Do sta? Di là. Buon riparo. Faccia con comodo. E te credo. Io ho finito, sono 20 sacchi. Va già via? Beh, ho finito, che devo fare? Ho finito. Vabbè, a me Pozzetto con la casa stregata ha fatto sempre morire dalle risate, quindi qua in questo caso interveniva in un'abitazione privata, non so se l'avesse chiamato l'amministratore di condominio, ma è così, insomma, potrebbe essere anche il professionista di cui abbiamo bisogno in questo momento per risolvere una grana condominiale. Allora, proprio una settimana fa ci siamo occupati di questioni condominiali perché avevamo una scadenza che ci imponeva di ritornare sul tema della vita di condominio, cioè l'obbligo di dotarsi del sistema di contabilizzazione dei consumi di riscaldamento, acqua calda e raffrescamento. E le abbiamo lanciato anche il secondo tema condominiale che va affrontato in questo momento dell'anno, quando il condominio chiude per ferie. Eh sì, perché estate non è che significhi indistruttibilità degli impianti. A luglio, come a dicembre, si può rompere l'autoclave, si può bloccare l'ascensore ad un piano e se ti si scarica pure lo smartphone non sei, sai, finito. Cosa fare. Esatto. Si può verificare qualsiasi tipo di inconveniente più o meno grave che renda urgente un intervento di emergenza. Allora, mi ricordo una trasmissione fatta un paio di anni fa in cui raccontavamo, lo avevamo letto sui giornali, di questo caso di amministratore di condominio irreperibile perché era andato in ferie dall'altra parte del mondo, forse in Patagonia o non mi ricordo dove, il che non sarebbe niente di grave perché poveretto pure lui. Non è che sono gli arresti domiciliari. Esattamente, però pare che invece si fosse sollevato il polverone perché non aveva lasciato nessuna indicazione per la gestione di possibili emergenze condominiali. Tu l'hai evocato, lo salutiamo subito, anche perché questa volta, per fortuna, finalmente, invece che averlo al telefono, lo abbiamo trascinato a forza nei nostri studi di Radio 24. L'avvocato Eugenio Correale, direttore del Centro Studi ANACI di Milano, benvenuto. Grazie, non mi ha trascinato, sono venuto molto volentieri. Sta meglio qua che in tribunale. Sì, avvocato. Poi l'argomento di oggi è francamente molto più interessante di quello della contabilizzazione. Certo. Non abbiamo comma, non abbiamo articoli di legge, abbiamo da parlare di una serie di attività che tutto sommato sono, viaggiano sulla ragionevolezza. Sul buon senso, però in realtà a quanto pare qualche indicazione bisogna darla anche in questi casi, avvocato, perché qualche condominio e qualche condomino le informazioni di base a quanto pare spesso non ce l'hanno, anche sul comportamento corretto da tenere nel frangente estivo. La speranza è che ce l'abbiano gli amministratori, ecco, i quali debbono sapere che non hanno particolarissimi impegni, non è che ad agosto la gestione condominiale cessa, semplicemente ad agosto c'è una minore vigilanza sulle parti comuni, molte unità immobiliari iniziano a non essere frequentate, abitate, si va al mare, l'amministratore va pure al mare, allora tutte queste cose vanno considerate. Quindi, primo punto, non è che l'amministratore di condominio non possa andare in vacanza o comunque deve garantire sempre al 100% la sua reperibilità. Posso rispondere sì e no. Ecco, l'amministratore può andare dove crede, può fare quel che vuole, ma deve curare la gestione secondo criteri di ragionevolezza. Il primo esempio che mi viene da fare è: se tu sai che ad agosto l'edificio si svuota, cerca di evitare che ci sia un ponteggio che agevoli i ladri. L'esempio può sembrare banale, ma in realtà dice che occorre avere un po' di preveggenza, la capacità di intendere quel che sta per accadere e fare in modo che il mutamento di vita e di abitudini che c'è ad agosto non determini danno. Questa del ponteggio non ci avevo mai pensato, perché insomma, se un edificio si sta ristrutturando, certo, magari non è neanche banale smontarlo per rimontarlo al rientro dalle vacanze, eppure teoricamente bisognerebbe pensare anche a questo. Certo, non c'è nessuna legge che obblighi a togliere il ponteggio ad agosto, ma noi sappiamo benissimo che ci sono i furti negli appartamenti e in quel mese occorre stare un po' attenti. L'esempio è fatto soprattutto per verificare che occorre calibrare le cose. C'è il condominio enorme, il condominio dove c'è la vigilanza costante, c'è magari l'impresa che è dedicata a quel plesso, l'amministratore se ne va in vacanza lasciando un numero di cellulare e va tutto bene perché già abbiamo una struttura che funziona. C'è il condominio minimo dove l'ultimo che va in ferie chiude la luce perché non abbiamo particolari attività, e poi ci sono i condomini con 20-30 famiglie che non possono essere abbandonati a se stessi perché c'è già una complessità di esigenze, impianti complicati. Per non dimenticarci di tutti quegli appartamenti che rimangono occupati dalle persone anziane che in realtà in vacanza non ci vanno. Magari stanno benissimo naturalmente, però è chiaro che bisogna spezzare una lancia, come si diceva una volta. Su quello gli amministratori di condominio professionali qualcosa hanno tentato di farla e hanno tentato di istituire dei servizi sostitutivi, dei familiari che sono in vacanza. Il Comune di Milano si è impegnato, mi fa piacere poterne parlare perché sono quei temi ricorrenti. Ne parliamo a giugno-luglio, non siamo riusciti a risolverli ad agosto, poi in settembre ce ne scordiamo, invece andrebbero preparati meglio proprio per quel periodo. L'assistenza agli anziani è assolutamente fondamentale. Adesso rimarcheremo questi punti. Avvocato Correale, nel frattempo ricorda agli ascoltatori che possono intervenire stamattina all'800 24 00 24. Raccontateci come ci si organizza nel vostro condominio in questo periodo. È stato buono l'intervento di preveggenza, come l'ha chiamato l'avvocato Correale, già pensato, ipotizzato dal vostro amministratore amministratore che correttamente, giustamente andrà in ferie, quindi ha già lasciato tutte le consegne ad un eventuale sostituto, ha lasciato la famosa lista di raccomandazioni in bacheca con tutti i numeri di telefono dei soccorsi eventuali che devono intervenire in caso di emergenza. Insomma, abbiamo tanti punti da affrontare ancora, tutto questo però dopo il traffico. Sì, è ora, a tra poco. Cuore e denari. Mamma mia, che caldo. Non lo sono qua dentro. Lo sapevo io. Lo sapevo che oggi non devo fare cose rischiose. Ah sì, perché prendere l'ascensore è una cosa rischiosa? Il venerdì 13 agosto sì. Insomma, e se capita e siamo in un condominio, tutti se ne sono andati in vacanza, compreso anche l'amministratore, magari il 13 è meglio del 15, però avvocato Correale. No, ma guarda, a Carlo è capitato. Davvero? Mio marito è capitato e non c'erano ancora i cellulari. E quindi? Adesso è ancora vivo, circola, eccetera. Il giorno lì però, come l'aveva gestito? Era agosto 13? Adesso non mi ricordo più il 13, ma era agosto. Noi naturalmente eravamo tutti in vacanza e lui ci ha raccontato questa disavventura. Ma alla fine la disperazione ti porta a toccare qualche cosa e riuscito. Insomma, alla fine l'ascensore mi ha restituito mio marito. Però e viviamo felici e contenti. Ah, siamo nonostante contenti, l'ascensore. Sì. Esatto. Avvocato, allora capita in questo periodo, è evidente che non abbiamo con noi il numero di telefono dell'emergenza, in realtà nell'impianto c'è indicato il numero di emergenza da fare, ma non è che arrivi rapidamente. In questo caso dobbiamo disturbare l'amministratore di condominio prima della società che gestisce eventuale il pronto intervento. Se tutto funziona, perché se l'ascensore è ben conformato a tutte le assistenze, dovrebbe bastare premere un pulsante, semplicemente quello, e già c'è un segnale d'allerta. Certamente se l'impresa non arriva si telefona all'amministratore, certo, il quale magari ha un altro manutentore. C'è un film di Alberto Sordi di tanti anni fa, giocato proprio su questa esperienza. Bellissimo. Non me la ricordavo, se no prendevamo anche quello. E lui era un prete addirittura e rimaneva nella cabina dell'ascensore assieme a una ragazza non brutta, se non ricordo male. Se ricorda bene i particolari. Avvocato Correale, in agosto, in quali casi, se deve farlo, anche in questo caso se è un'azione di buon senso, un amministratore di condominio deve avvalersi di un sostituto che dia sempre la sua reperibilità anche fisica in ufficio? Il sostituto non è previsto e non può essere obbligatorio, anche perché comporterebbe per il condominio un esborso di denaro ulteriore. Non dobbiamo mai dimenticare che alla lunga i servizi si pagano e quindi anche un sostituto finirebbe per avere un peso sulla gestione condominiale. Quello che deve fare l'amministratore è rendersi conto di quanti condomini amministra, della complessità delle gestioni e regolarsi di conseguenza. Molte volte gli amministratori sono professionisti legati ad altre persone, per cui si avvalgono di collaboratori che non sono interni al loro studio. L'esempio classico è quello dell'idraulico che conosce tutti nel condominio. Un'altra astuzia che è decisamente consigliabile è quello di coordinarsi col portiere. Se nello stabile c'è il portiere, magari evitare di andare in ferie quando il portiere è in ferie semplifica molto, perché in questo modo quando tu sei in ferie c'è il portiere che un po' controlla ed è in grado di chiamarti e viceversa. Certo. Quindi occorre avere soprattutto tanto tanto tanto buon senso. Poi quel cartello del quale parlava lei, con l'elenco dei collaboratori, con l'elenco delle persone. Quali sono i numeri, i must che devono esserci, che non possono proprio mancare nella lista, nella lista di raccomandazioni da affiggere nella bacheca condominiale, perché tanto ce l'abbiamo tutti quanti. Che vivono in condominio, noi che viviamo in condominio. Un mio amico molto ironicamente ci ha messo pure il telefono dell'avvocato, però eviterei. Certamente perché era il suo? Sì, ma penso che l'abbia fatto soprattutto per divertimento. Proprio dei condomini che erano particolarmente litigiosi. Più seriamente, i due che servono molto sono certamente l'idraulico e l'elettricista, perché sono le possibilità di intervento estremamente rapido. Poi non bisogna dimenticare che i grossi eventi si governano da solo. Sembra strano, ma un allagamento di una cantina, ci sono i pompieri che arrivano. Le cose sulle quali l'amministratore deve fare molta attenzione sono quei mini sinistri che poi danno sfogo ai grossi danni. La infiltrazione da rottura di una tubazione, è difficile che arrivi il vigile del fuoco, però occorre intervenire immediatamente. Certo. Io l'unica cosa che auspico per quello che mi riguarda a Ferragosto è che non venga giù il nubifragio, perché sono in zona Seveso e già qualche situazione non troppo simpatica l'abbiamo già vissuta. E quella non c'è amministratore di condominio che tenga, purtroppo. 800 24 00 24, avvocato, faccia un sorriso per la stampa, perché siamo in diretta Facebook, quindi stamattina i nostri ascoltatori sono ben felici finalmente di conoscerla anche di persona. Spero nel lodo della cravatta. Sì, apposto, è appostissimo. Sì, sei un po' allentato, ma è basta. Non si vede. Io ho portato, dato che siamo a luglio, un bel venerdì per fare un po' di vacanza, il mio cappellino. Bene, mettilo un attimo che ti con sta così bene. Ecco, allora, io invece per celebrare questo momento non mi sono truccata stamattina, quindi sappiatelo, perché con mi sono vedi, con le cuffie, con le cuffie diventa un testone. Allora, Luisella dalla provincia di Imperia, è venerdì, siamo un pochino più leggeri giustamente, però pur essendo il tema un tema come sempre divisivo, come si dice in gergo. Luisella, benvenuta ad Imperia, che succede nel suo condominio? Dunque, io ho questo problema, ho una necessità, dato che qui abbiamo il clima migliore d'Europa nell'estremo ponente ligure, perché sono vicino alla Francia, dove a Monaco abbiamo 300 giorni di bel tempo, e invece da noi normalmente ci fanno cattiva pubblicità. Noi comunque, a Milano invece no, purtroppo, quindi Luisella. Qui abbiamo sempre un bel venticello, si sta molto bene, lo faccio un po' di pubblicità io allora. Brava. Ecco, abbiamo anche delle produzioni, dei prodotti fantastici del nostro territorio, l'olio più leggero con meno acidità che esista in Europa. E quindi eccetera, con tutta questa bellezza, dice lei, c'è qualcosa che ci deve rovinare questa condizione? Però, di serenità. Dato che noi possiamo cucinare all'esterno per molto tempo nell'anno, e volevo prepararmi una bella, sulla terrazza, una bella zona cucina, invece di fare le mie zucchine trombetta all'interno, le voglio fare all'esterno. Allora, intanto Luisella, io le dico che martedì prossimo noi ritorniamo con la nostra rubrica La radio è di casa, e la nostra architetto Rita Campana sta preparando proprio la ristrutturazione della terrazza per allestire la cucina. Ecco, chiusa parentesi. Lei prepari le zucchine trombetta, esatto, e Rita Campana prende, esatto, il progetto. Esattamente, Luisella. Detto questo, insomma, con questo barbecue lei però ha qualche difficoltà. No, io volevo, non so se sia una panzana oppure se è vero che hanno pensato questo, lo Stato italiano, invece di pensare altro, di aver, che ci sia un decreto legge in cui gli odori esterni della cucina nuociono alla salute dei nostri vicini. Allora, Luisella, un buon languorino, abbiamo un minuto di tempo, devo salutarla. Che nuociono non lo so, detto questo però sono disciplinati molto rigidamente. Sì. Regolamento del comune, però non è un decreto, il governo non se ne è occupato, ma tutti i comuni d'Italia, soprattutto quelli piccoli, vietano l'accensione di fuochi. È abbastanza da ridere pensare che il barbecue possa fare male, però viene molto disciplinato e viene molto omologato il barbecue con i fuochi fatti di legno. Ma se Luisella si attrezza con una cucina, con una cappa e tutto quello che serve, secondo lei? Probabilmente alla fine non realizza il risultato buono. Direi che occorre pensare soprattutto alla possibilità che dà la tecnica moderna. Pensiamo semplicemente alle cucine elettriche, che non danno quei problemi. Bene, ci ritorniamo sulla cucina d'estate e anche sulla vita di condominio. A tra poco. Cuore e denari. Siamo noi, condomini del mondo. Allora, intanto proviamo ad essere dei buoni e bravi condomini qua in Italia, a Milano, insomma, una realtà molto diffusa, ma in tante città d'Italia. Stiamo cominciando ad alleggerire un po' i nostri pensieri, cominciamo a guardare alle vacanze, ma insomma non dimentichiamoci però che andandocene lasciamo intanto vuoto il nostro appartamento, per cui anche come condomini non è che tutte le responsabilità poi di una corretta gestione dello stabile ricadano solo ed esclusivamente sulle spalle dell'amministratore di condominio, che deve lasciare tutte le consegne, tutti i numeri di telefono, la sua reperibilità. Avvocato Eugenio Correale, poi terminiamo di rispondere alla nostra amica Ligure sulla questione del barbecue in terrazzo, però anche il condomino ha delle responsabilità verso i suoi vicini di pianerottolo e tutti gli altri. Sì, magari non quello di avvertirlo se c'è un furto, ma altri doveri li abbiamo di sicuro. Abbiamo un interesse, un potere e un dovere di intervenire. C'è anche una norma che lo dice. Ah, perché l'articolo... No, beh, quindi il comma alla fine è tirato fuori. Se lei invita un avvocato, una sentenza, un comma lo trova. E l'articolo 1134 che abilita il singolo condomino a... porre in essere le attività urgenti. C'è anche un'altra norma, ma lasciamo perdere. Quello che è sicuro è che hai l'interesse ad intervenire perché è casa tua e la legge ti permette di intervenire. Addirittura in astratto il condomino potrebbe anche andare oltre la semplice riparazione ed eseguire la manutenzione vera e propria. Però è evidente che se tu ti accorgi che c'è un versamento d'acqua che arriva dal piano di sopra, esatto, e il tuo vicino di casa, quello che abita lì, esatto, sopra, non c'è, cosa si fa? Nelle grandi città non c'è grosso problema, perché soprattutto nelle aree esterne i vigili del fuoco intervengono in maniera rapida e tutto sommato riescono a farlo in maniera molto molto brillante. È diverso il caso delle tubature incassate, e là creano veramente delle difficoltà. Là deve essere il condomino che sente l'amministratore, cerca di far intervenire l'amministratore, che è meglio. Se l'amministratore non c'è, interpellerà o la impresa incaricata dal condominio oppure un'impresa terza. Attenzione in questi casi, perché purtroppo d'estate molte imprese triplicano i prezzi, triplicano i costi. Guardi, anche quello è un altro nostro cavallo di battaglia, sì, avvocato, sì. L'idraulico d'agosto, noi chiamiamo la puntata l'artigiano d'agosto, anzi, sì, con tutte le raccomandazioni delle associazioni di categoria che dicono che in realtà anche loro elaborano delle liste di professionisti ai quali rivolgersi in questo periodo, che garantiscono dei prezzi ragionevoli. Detto ciò, la persona apre sempre le pagine gialle o bianche o i documenti che sono disponibili adesso, va su internet, chiama il primo nome che trova e paga pegno per questo. Quello è pressoché fatale. Quello che non è obbligatorio è farlo intervenire senza avergli mai chiesto un preventivo, lo so, o addirittura accettando di firmare un foglio che poi viene riempito successivamente. Nella mia esperienza c'è anche questo. Quello là arriva, ti mette davanti agli occhi un foglio e ti dice: devi firmare perché altrimenti non lavoro. Guarda quello che firmi. Ma roba da matti. Allora, 800 24 00 24, abbiamo ancora qualche minuto di tempo da trascorrere insieme per la vostra vita di condominio d'agosto. Rimanete nella vostra città, oppure se intendete naturalmente andare in ferie, allontanarvi per qualche settimana, non avete pensato manche magari a tutto. Avvocato, peraltro, uno degli argomenti che volevo affrontare con lei stamattina: secondo lei, per una persona che si allontana appunto per qualche settimana dalla sua abitazione, conviene chiudere l'acqua, staccare tutte le prese di corrente completamente? Direi assolutamente sì, e con un'avvertenza particolare alle antenne televisive. Esistono anche i fulmini. Esistono i fulmini, è uno degli ingressi migliori, più privilegiati dalle onde elettriche, sono le antenne televisive. Staccare l'antenna televisiva è già un ottimo sistema per evitare che tra il tuo impianto elettrico e il mondo ci sia un collegamento, certo, agevole. Stavamo parlando prima del condizionatore? Sì, stavamo parlando prima del condizionatore e anche del barbecue della nostra, esatto, amica. Allora, chiudiamo il capitolo barbecue, perché in realtà stavamo spiegando alla nostra ascoltatrice che il tema non è il buon odore della buona carne che lei vuole cucinare sul suo barbecue, appunto, il problema. Il tema è la sicurezza dell'attrezzatura che si usa in qualche condomino, magari non particolarmente attrezzato, con una bella cucina di design, sì, sul balcone dell'attico. Ecco perché assolutamente non tutti. Sì, sono le fiamme libere che generano pericolo oltre che fastidio, ma l'aspetto che cura il regolamento locale, soprattutto quello del pericolo, e le fiamme sono davvero pericolose. Quindi se non c'è fiamma posso fare le mie zucchine a trombetta. Esatto. Poi, tra il piano elettrico e le zucchine a trombetta siamo felici. Io non le ho mai viste, ma tu sono hai cucinato quelle... pure qui. Ah, quelle lì tutte sì, un po' le vedi, ma sinuose. Le conosci anche tu, ah, sì. Ecco, vedi. Alberto dalla provincia di Verona, prima del tema del condizionatore, ci fa completare il tema dei potenziali incendi di questo periodo, non solo per le temperature, ma anche per un uso un po' indiscriminato del barbecue. Alberto dalla provincia di Verona, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti voi. Sì, cosa succede? Niente, ho un'informazione abbastanza tecnica. Parchi e condomini hanno l'obbligo di tenere quello che una volta si chiamava certificato prevenzione incendi. Sì. E che adesso si chiama SCIA. Nel caso in cui ci siano da fare dei lavori di adeguamento per essere a norma, la responsabilità, qualora gli inquilini non volessero, per così dire, fare fuori i soldi per fare certi lavori, guardi. Perché, a chi va? Cioè all'amministratore o direttamente al proprietario che non ha voluto dare il suo contributo per questo lavoro di adeguamento? Grazie, esatto. Alberto. Se la responsabilità è dell'amministratore, che cos'è che può fare l'amministratore? Cioè può obbligarli oppure deve rinunciare al mandato? Grazie Alberto. La responsabilità è chi deve fare, quindi l'amministratore ha la responsabilità di convocare l'assemblea, di chiedere lo stanziamento dei fondi. L'amministratore ha una responsabilità diretta per le opere non fatte quando il costo delle opere rientra nella normale gestione, quando nella sua cassa ci sono i quattrini. Prima di spendere i soldi per altro, spendo i soldi per la sicurezza, soprattutto per la responsabilità antincendi. Per il resto, i grossi interventi di adeguamento degli edifici spettano l'assemblea e sono responsabili i condomini che non approvano i lavori. Abbiamo su Facebook, su WhatsApp qualcosa di carino? Sì, allora un ascoltatore ci scrive che vuole la ricetta delle zucchine a trombetta, per cui che dovremmo richiamare la nostra amica di Imperia per capire come le vuole cucinare. E, sì, altri ascoltatori che scrivono che il loro amministratore è perfetto, che durante la riunione condominiale noi affrontiamo hanno messo sempre bene i casi problematici, ma in realtà ci sono anche edifici che funzionano molto durante la riunione condominiale hanno proprio definito una strategia per vacanze sicure, ci scrive un ascoltatore. Quindi magari perché non ce le manda, così le condividiamo con tutti quegli abitanti magari di condomini problematici, così si va un po' con un atteggiamento propositivo senza essere sempre dei detrattori della vita di condominio, e magari anche agli altri, i nostri vicini di casa, fa piacere. 800 24 00 24, avvocato, quando è caldo accendiamo questi condizionatori? Molti hanno il motore sul balcone che fa un rumore pazzesco, perché magari le nuove tecnologie consentono di installare anche qualche dispositivo non particolarmente ingombrante dal punto di vista del rumore. Qualcuno invece è fastidioso. Che si fa? Si fa intervenire il tecnico, perché oggi non esistono macchinari rumorosi in sé. Se generano rumore è l'installazione, quasi sempre l'installazione cattiva che genera vibrazione, e dalla vibrazione si ricava un rumore. Le macchine moderne non fanno rumore quasi assolutamente, e oggi un compressore per il riscaldamento costa dai 2 ai 500 euro, quindi siamo in condizione di eliminare assolutamente i rumori da impianto di condizionamento. Viceversa c'è il problema dell'estetica, che è un po' da guardare, però cercheremo di collocarlo non decisamente in facciata, non in aggetto, in maniera tale che non ci sia un danno estetico che comunque i giudici non apprezzano e non consentono. Hai qualche quesito sull'argomento? No, infatti io ho messo questa macchina nel mio balconcino e ho cercato di collocarla in modo tale che non danneggi troppo le piante. Certo che comunque rimane sempre ingombrante, ho fatto costruire una sorta di mettici un mobiletto. Po' di azuleias, come parlavamo la settimana scorsa, di belle piastrelle colorate. Mi piacerebbe un motore piccolo. E vabbè, ma ci arriveremo, guarda, con la tecnologia. Ci arriveremo assolutamente. Quando ho iniziato a lavorare, i compressori erano 3 volte o forse 4 volte più grandi di quelli attuali. Nel giro di pochissimi anni si sono ridotti, e già negli ultimi 3 anni c'è stata una forte riduzione di dimensioni su questo, con migliore funzionamento, con maggiore efficienza e anche con risparmio dei consumi. Che è quello più importante, sicuramente. Andiamo, sì, a Torino. Sì, verso la chiusura con Alessandro che ci racconta l'accaduto nel suo stabile. Buongiorno belle ragazze, sarò breve e chiaro. Già questo mi piace, già Alessandro allora, mi piace, metto il cappello. Diciamo intervento di emergenza, quindi ho un inquilino, io stavo via, rimane fuori casa, chiama, come avete detto voi, sulle pagine bianche o gialle o studi su Google, il primo nominativo. Questi sono arrivati, hanno aperto la porta perché effettivamente evidentemente era bloccata la serratura, se ne sono andati, hanno presentato un conto di 550 euro. Beh, certo, avranno sudato parecchio. Sì, mi pare che ci abbia messo 3 minuti e mezzo. E la signora ha fatto tutto e poi dopo mi ha detto, ah guardi, allora sono entrata, io lo trattengo dalla retta dell'affitto e basta. In questo caso è corretto che si possa fare, perché mi sembra di aver capito l'avvocato che in caso emergenziale, anche se c'è scritto nel contratto d'affitto che non può operare spese che non siano state concordate, però in questo caso può farlo. Alessandro, grazie, devo salutarla perché il tempo a nostra disposizione sta terminando, ma insomma addirittura... Non può compensare, spese con un affitto, se l'affitto lo paghi. Anche perché è una situazione di forse negligenza... Ma in generale, anche se avesse ragione... Le tue obbligazioni le adempi, poi chiedi l'adempimento degli altri, e magari ci si dimostrando, può mettere d'accordo, dimostrando tutti i presupposti. Comunque oggi le serrature, soprattutto le chiavi, costano molto. 500 euro sembra una cifra straordinaria, ma in realtà una chiave speciale moderna costa 27 euro. Avvocato, non mi dica niente, io ne ho combinata una, ho perso quelle dell'auto, cioè la prima volta nella mia vita, e tremo al pensiero di dover andare il due a fare... Materializzate. Guarda, è vero. Sì. Non si capisce cosa sia successo, per fortuna avevo il duplicato, però sono andata a vedere quanto costano quelle dell'auto e altro che quelle della porta di casa. Ho un'altra domanda che arriva da WhatsApp per l'avvocato, posso leggerla? Certo. Per quanto riguarda il cancello automatico del condominio... Stia attento, avvocato. È obbligatoria la manutenzione e la messa a norma. Ma se il condominio non vuole fare manutenzione né messa a norma, cosa rischia l'amministratore? Rischia molto. Rischia moltissimo e direi rischia, ed è giusto che rischi, per un motivo. Il cancello è pazzesco, perché, passa un bambino. Intanto il cancello è pericolosissimo. gli infortuni che accadono sono terribili e accadono sui bambini, ma poi la verità è questa, che la riparazione e la messa a norma del cancello non costa molto. Torno a ripetere la questione di sensibilità e di professionalità. Prima di pagare quasi tutto, anche l'avvocato pensa di fare la manutenzione del cancello. No, ma la cosa pazzesca è che i condomini molto spesso, in tanti stabili, pensano di acquistare solo la casa, non concepiscono mai anche l'acquisto delle parti comuni dell'abitazione, e su quelle i soldi vanno tirati fuori, ragazzi, non c'è niente da fare, perché sono parti che avete comprato con l'appartamento. Avvocato, se c'è una cosa che ho imparato dalla vita milanese è questa. Certo, però per il cancello mi permetta di dirle che è veramente dissennato, perché i costi sono lievi. Non sono costi alti. Io capisco perfettamente quando si dice 300.000 euro di facciata li spendiamo fra 2 anni, ma 700 euro di cancello fai la cortesia di spendere adesso. Avvocato Correale, grazie per essere stato con noi, ci ha fatto molto piacere. Adesso abbiamo il suo numero di telefono, io benissimo. E Nicoletta lo appendiamo nelle nostre reciproche bacheche dei nostri condomini, per cui sarà contento di ricevere tante telefonate di amicizia. Allora ho dato una cattiva idea. Esatto. Grazie, buone grazie. Vacanze, grazie. Ci risentiamo buone presto. Buone vacanze anche a voi, grazie. Grazie, grazie. A presto. Oh, pardon. Sì? Buongiorno, non mi disturba affatto, mi dica. L'eterno riposo, don Alleo, signore, risplende ad essa la luce perpetua, riposo in pace, amen. L'eterno riposo, don Alleo, signore, risplende ad essa la luce perpetua, riposo... Pronto? No, non mi disturba affatto, mi dica. Un altro film, Deborah, questo è Viaggi di nozze del 1995, diretto e interpretato da Carlo Verdone. Grandissimo. Prima il tuo ospite citava Alberto Sordi. E noi l'abbiamo preso questo breve frammento per introdurre il tema di oggi, lo prendiamo da lontano perché parliamo degli effetti che l'utilizzo quotidiano della tecnologia ha sulla nostra postura. Adesso anche la ricerca lo dimostra, ma andiamo prima a capire quanto siamo connessi e quanto siamo legati a questa tecnologia, che sicuramente ci semplifica la vita, eh? Si fa presto a dire digital detox. A livello internazionale, una persona su 3 infatti ammette di fare fatica a staccarsi dalla tecnologia. anche quando sa che dovrebbe farlo. Secondo uno studio GFK condotto qualche mese fa, il 42% delle persone pensa che sia importante essere sempre connessi. In particolare, Cina, Brasile e Argentina sono i paesi che trovano più difficile fare una pausa dallo schermo. In Italia, la fascia d'età maggiormente dipendente è quella dei trentenni, mentre a livello internazionale sono gli adolescenti. Hai sentito, Deborah? Trentenni da noi, adolescenti nel resto del mondo. Mm-hmm. Noi abbiamo un'adolescenza prolungata. Esatto. Diciamo anche se così. Io tante volte con la tecnologia mi definisco una brontosaura di ritorno. È vero. Un po' indietro. Ci semplifica la vita, perché dai, diciamo. Assolutamente. Siamo in giro, andiamo a guardare su internet tutto quello che ci serve. Però al volo, dobbiamo, qualche cosa lo dobbiamo pagare. Citavo in apertura questa ricerca pubblicata su Plus One, che è arrivata alla conclusione che con lo smartphone si cammina più ingobbiti, più lenti e più sbilenchi. Sarà un giudizio troppo severo, perché poi sai, alla fine si tende a picchiare duro. 800 24 00 24. Intanto lo chiedo ai nostri ascoltatori, che sicuramente col loro smartphone avranno una relazione alquanto stretta come quella che abbiamo noi. Magari anche una scoliosi altrettanto pronunciata. Ma in linea con noi abbiamo la dottoressa Laura Bertelè, fisiatra specialista in terapia fisica e riabilitazione motoria, psicologa, direttrice sanitaria della Fondazione Apostolo. Buongiorno. Buongiorno a voi. La presento solo una volta, la sua qualifica, ma intanto noi la conosciamo bene, i nostri ascoltatori la amano. Ricordo anche il titolo del suo ultimo libro, Dipende dalla schiena. Intanto bentornata. Grazie. Dottoressa, la postura, che mi piace definire, ma lei mi corregga, come il modo in cui posizioniamo il nostro corpo nello spazio mentre stiamo fermi o quando ci muoviamo, è personale. Dipende da tante cose, dalla nostra struttura fisica, dalla nostra forma fisica, dagli anni e anche, perché no, dal nostro stato d'animo. Perché chi ci conosce, ad esempio, non ha alcuna difficoltà a capire che cosa stiamo vivendo, limitandosi a guardarci, no? Certo. A osservare proprio la nostra postura. Quindi è personale, ma un po' tirata per i capelli, vorrei provare a tratteggiare con lei dei profili, delle categorie, per valutare così, per dare la possibilità ai nostri ascoltatori di riconoscersi. Adesso mi tolgo il cappello perché Carmelo è preoccupato, dice questa è andata fuori di zucca, per riconoscersi un po' in questi profili, di cui lei ci aiuterà a capire i punti deboli e i punti di forza. Vado, ma lei mi corregga, eh? Sì. Io ho pensato, ad esempio, anche così guardando i colleghi e guardandomi allo specchio, perché la prima cosa che dovremmo fare è guardarci noi prima di guardare gli altri, ma chiudo un'altra parentesi. C'è la postura di chi tiene il bacino in avanti. Esatto, sì, che è molto frequente e che è sintomo che c'è un accorciamento dei muscoli posteriori delle cosce. Infatti è frequente in chi fa molto sport, ad esempio, che spinge il bacino in avanti, e quando c'è il bacino in avanti le ginocchia vanno fin troppo all'indietro, quello che si chiama un recurvatum, e questa posizione affatica moltissimo la regione lombare. Ok, allora vi riconoscete? 800 24 00 24, state lì. Poi ci sono, e mi sembra una categoria, un profilo molto comune, le persone che tendono ad avere le spalle incurvate, io amo dire un po' ripiegate su se stesse. Dottoressa Bertelè. Ecco, questo effettivamente è molto molto frequente, perché le spalle dicono quanti pesi ci prendiamo sulle spalle o ci mettono gli altri, ma che poi è la stessa cosa, perché se noi ci facciamo attaccapanni, gli altri ci attaccano i panni, e quindi le spalle sono proprio un sintomo di quanto peso abbiamo sulle spalle, perché le spalle rispondono muscolarmente a pesi fisici o psichici, nello stesso modo, gli stessi muscoli. Quindi più abbiamo pesi fisici o psichici, più le spalle si incurvano, vengono in avanti. E questo poi ci incurva tutto il corpo, perché certo, quando le spalle vanno in avanti diventano dolenti, viene la proiartrite e tutta una serie di problematiche che conseguono. Ecco, io ho immaginato già subito molte persone come me a sentire pronunciare la parola spalla, cerchi di... Ecco, subito di tirarti su. Ma ti accorgi che questa posizione che adotti proprio per aprire le spalle non ti è più naturale. 800 24 00 24, quindi problema spalle, e scendiamo dottoressa Bertelè, c'è chi ha un po' il busto, devo dire, rigido. Un po' imbustato. Ecco, imbustato. Ecco, ci sono che dicono: sembrano quelli sempre un po' pancia in dentro, petto in fuori, rigidi. Sì. Questo è più tipico negli uomini, ad esempio, perché è insito questo stereotipo di pancia in fuori, petto in fuori, pancia in dentro, un po' militaresco, ecco, che dà quest'idea un po' maschile. E questo però è un segno di grande rigidità della schiena, quindi alla fine dà dei grossi problemi alla schiena come tipo di posizione. E in genere è anche un segno di rigidità, non solo fisica, ma anche mentale. Ecco, perché oggi con la dottoressa Bertelè, che io ho letto e riletto e consulto, Ascolta il tuo corpo, in cui la dottoressa Bertelè spiega quante e la nostra postura sia anche influenzata dal nostro sentire emotivo e da questo condizionata. E quindi possiamo approfittare della dottoressa Bertelè per raccontare che cosa i messaggi che il nostro corpo ci manda, non solo attraverso magari disagi dolorosi, rigidità, ma anche come l'abbiamo visto cambiare nel tempo, come sta cambiando. All'800 24 0024 diteci se vi siete riconosciute in una di queste categorie o se siete un po' un mix di fattori. Aspettiamo naturalmente le vostre esperienze. Se siete ancora un po' indecisi, il nostro numero verde lo conoscete, ma provate a rispondere alle domande della nostra scheda. Il tuo capo è in avanti rispetto al resto della colonna vertebrale? Le spalle sono in avanti rispetto al piano della schiena? Quando sei seduto, non c'è più spazio tra schienale e colonna lombare? Appoggiandoti con la schiena al muro, riesci ad aderire senza sforzo con la testa e con il tratto lombare? E noi ci fermiamo qui. Naturalmente questa sorta di autotest da cui prenderemo spunto per proseguire la nostra chiacchierata con la dottoressa Laura Bertelè, animate naturalmente dai vostri interventi, la metteremo anche sulle pagine del nostro programma. Attenzione, parleremo naturalmente anche di scarpe. I nostri piedi in questo periodo si svestono, amiamo metterli in mostra, amiamo indossare dei sandali, molti indossano gli infradito, che io in città trovo orribili. E in ufficio, in peggio. In ufficio, soprattutto. Ma questa è un'altra cosa. Anche però, quelli insomma, miei possiamo... con tutti i brillantini non ti piacciono? No, ma sono scarpe, non sono l'infradito di plastica. Ah, no, quelli ecco, lì, poi sì. Tu sei una donna e non hai i peli sulle dita. Sulle dita e soprattutto hai le unghie pulite. E con questo andiamo ai mercati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Cuore e denari. Torniamo ad affrontare il tema del giorno, seconda parte di Cuore e denari. Parliamo di postura, quindi di tutta quella serie di sofisticati meccanismi che controllano il nostro equilibrio e nello stesso tempo ci permettono di muoverci nello spazio con disinvoltura, rispettando però una regola fondamentale: il massimo del comfort con il minimo dispendio di energia. Il guadagno dovrebbe essere assicurato. Ne stiamo parlando con la dottoressa Laura Bertelè. Dottoressa, sembra un po' difficile prendere coscienza della propria postura e soprattutto degli atteggiamenti scorretti che assumiamo in automatico e che ripetiamo senza rendercene conto, ma sicuramente lei oggi ci darà una mano. E voglio subito dare una mano a Cristina dalla provincia di Milano. Buongiorno Cristina, benvenuta. Grazie Nicoletta, buongiorno. Io volevo sottoporre il mio caso alla dottoressa perché ritengo che sia abbastanza un caso di quelli abbastanza comuni, ne avete già parlato. Sì. Io faccio il lavoro in ufficio e ho una postura molto accentuata in avanti, con le spalle sempre morbide, anzi direi molli, e mi viene fatto notare molto spesso, tanto che io ho acquistato in un centro ortopedico un corpetto che metto però quando lavoro da casa. Non lo metto, in realtà non lo porto così frequentemente come dovrei. Quando ho il corpetto, in realtà la mia postura ritorna abbastanza normale, ovvero rigida, verticale, non tanto rigida. In realtà quando poi io non ho il corpetto e mi fanno notare che sono molto portata in avanti, quasi come se avessi appunto questo peso, non so se psicologico o fisico, sulle spalle, in realtà io cerco di riportarmi nella posizione corretta. Ma poi si ritorna a quella non corretta, ecco. In un brevissimo tempo, ma addirittura quando io cerco di riportarla a quella corretta, io mi sento quasi a disagio, ovvero non mi sento nella posizione corretta. Tanto Cristina, ha descritto la situazione in modo chiarissimo, le faccio arrivare anche un libro, voilà. Che da un po' che non regaliamo. Dottoressa Bertelé, forse le faccio arrivare il libro della dottoressa Bertelé. Eccola lì. Prendo due piccioni con una fava. Dottoressa Bertelé, situazione classica, che cosa fare e quali sono le indicazioni che può dare a beneficio degli ascoltatori che si ritrovano nel caso così ben descritto da Cristina? Allora, intanto la posizione effettivamente è automatica, cioè non deve essere controllata volontariamente, perché se no noi faremo solo quello, cioè mentre lavoriamo invece dobbiamo avere la posizione automaticamente corretta e avere la testa libera per dedicarci a quello a cui vogliamo dedicarci. Quindi per favorire la posizione corretta, come ne parlo nel libro, è molto molto importante innanzitutto la sedia. Cioè, perché non possiamo pensare di avere una posizione corretta quando la nostra sedia è inclinata all'indietro, cioè più alta davanti e più bassa dietro. Per favorire la posizione corretta, l'ideale è avere una sedia un po' inclinata in avanti, appoggiare bene i piedi per terra, fare in modo che gli ischi, che sono quegli ossicini che si sentono nei glutei, cioè nel sedere quando siamo seduti bene, appoggino sulla sedia, piuttosto è meglio stare sulla parte anteriore della sedia, un po' sul bordo anteriore, in modo che la schiena si rettilinizzi e si inclini globalmente in avanti, non come una C, perché allora le spalle veramente diventano molto anteposte, molto curve, e la testa ancora più in avanti cade. Tutto quello che è corsetto, anche panciera con le stecche, così, questo ci dà l'illusione di essere dritti, ma noi ci sediamo nel corsetto e quando lo togliamo ci afflosciamo. Questo vale per tutti i corsetti. Quindi la posizione deve essere controllata dall'interno, piuttosto è molto più importante sdraiarci ogni tanto, appoggiarci a uno spigolo per rimetterci in posizione. Ecco, questo esercizio, dello spigolo, dottoressa Bertelé, tutti noi abbiamo uno spigolo a casa, in ufficio, possiamo utilizzare anche quello che di un muro della nostra città. Esattamente. Ecco, nessuno ci prende per matto, non facciamo nulla di male, cerchiamo di ritagliarci dei secondini di benessere. Essere, che è quello che noi vogliamo, ha un po' il senso di questa trasmissione, cioè raccontarvi che fare. Dottoressa Bertelé, questo nuovo riallineamento, mi lasci utilizzare questo termine, che possiamo fare un po' come toglierci la scarpa che ci fa male, quello funziona per la nostra postura. Me lo spieghi per bene? Andiamo in un posto dove ci sia uno spigolo, giusto? Esattamente, quindi appoggiamo la schiena allo spigolo, teniamo le gambe lievemente flesse e un po' aperte, quindi una un po' a destra, cioè la destra un po' a destra, la sinistra un po' a sinistra dello spigolo, appoggiamo il sacro, cioè la parte bassa della colonna vertebrale, e spingiamo la nuca, la facciamo scivolare lungo lo spigolo verso l'alto, quindi le ginocchia rimangono flesse, il peso bene sui piedi e la nuca invece scivola verso l'alto, come se qualcuno ci tirasse con un filo verso il soffitto, in modo di riallineare tutta la colonna vertebrale e far aderire il più possibile la colonna vertebrale allo spigolo. Questo è un po' come risettare la posizione e risuggerire al corpo la posizione corretta. Ecco, Francesco, il nostro amico piastrellista, ci scrive: mentre voi lo spiegate io lo faccio. Perfetto, bravo, continui così. Francesco ci dà tante soddisfazioni. Perché abbiamo suggerito questo esercizio? Perché ci dà modo non solo di riallinearci, di regalare un po' di sollievo al nostro apparato muscolo scheletrico, perché ci permette di toccare con mano che siamo tutti connessi, anche i nostri muscoli, le nostre articolazioni lo sono. Si parla infatti, dottoressa Bertelé, e lei parla di catene muscolari. In pratica quello che capita in periferia potrebbe farsi sentire al centro o in cima. Cioè, quello che capita in qualsiasi punto del corpo si fa sentire su tutto il resto. È come la mia maestra Mesea raffigurava il corpo umano come un burattino, cioè, nel senso, con un filo centrale, e quando si tira il filo tutto il resto si accorcia. Ecco, noi di fatto funzioniamo così. Uno sforzo ripetuto alla mano comporta negli anni un irrigidimento della spalla e alla lunga, tra l'altro, molto spesso si riflette su un'artrosi dell'anca, cioè ci porta a una patologia dell'anca contrapposta, controlaterale. È come se fossimo un tutt'uno ininterrottamente in dialogo, ogni parte è collegata col resto, non siamo mai a pezzi. Ecco, questo secondo me è molto importante, e chi comanda la posizione è la posizione della nuca. Esatto. Più la nuca va in avanti, più ci sbilanciamo su tutto il resto. Infatti, quando noi diciamo hai la testa sul collo, ma dove va il tuo collo? Sei esatto. Molto in avanti, lì iniziano i problemi. Dottoressa Bertelè, tante volte con Deborah lo diciamo, le cose che all'apparenza sembrano più semplici, quasi scontate, sono quelle che poi accendono le domande, i pensieri, perché sono facili da fare e viene la curiosità. A me, ad esempio, ne è venuta una. Lei diceva, quando state seduti sulla vostra sedia, anche magari appoggiando le due ossicine delle chiappe che hanno un nome, ecco, i piedi devono essere ben appoggiati in terra, anche se uno ha i tacchi funziona, è meglio poi per l'ufficio, quando siamo alla scrivania, portarci delle scarpette, non degli infradito di plastica, delle scarpette magari delle belle friulane di velluto colorato. Sì, più piatti siamo meglio è, ecco, cioè, perché io adesso ho i piedi nudi in modo di appoggiare bene tutta la pianta del piede. Tra l'altro, guardi, sull'infradito, poi forse ne parleremo dopo, sono veramente molto dannosi per la posizione della schiena e per tutto l'insieme della muscolatura. Diciamo che la cosa molto importante è avere una posizione naturale, poi se uno fa la serata elegante si mette i tacchi, sapendo però che i tacchi mandano la schiena in un'iperlordosi molto importante, d'altronde la loro finalità. Di fare sedere alto. Perché... certo, se no uno non li mette per allungare la gamba, che Deborah non ne ha bisogno, ma per fare anche il sedere sporgente, che un po' bisogno ce ne ho. Bello. Allora, tanto che facciamo l'esercizio, che è quello dello spigolo, il riallineamento, ci scrive un ascoltatore, ma la pancia va in dentro, gli addominali retratti? Oppure no. Sì, dunque, morbido. In questa posizione gli addominali lavorano spontaneamente, senza stringerli. Cioè più si allunga la nuca verso l'alto, è l'unico modo perché, scusi, le tette risalgano. Cioè tutti gli esercizi che si fanno per tirare su le mammelle sono inefficaci se la testa non va all'indietro verso l'alto. Cioè, ma è questo il trucco? Ma allora, esattamente. Cioè, ma è fantastico questa. Allora, ma per mi avere, il cappello perché non posso sentire. Dottoressa Bertelè, quindi per avere seni alti bisogna anche la nuca mettere. La nuca deve essere... pancia in dentro, va, allora, automaticamente. Ragazzi, qua diventiamo delle maggiorate. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo insieme con la dottoressa Bertelè, con Franco da Padova, camionista con mal di schiena, con il nostro prossimo ospite con cui parleremo di piedi. Vi saluto e ritorno. Cuore e denari. È il mio corpo che cambia la forma. È in trasformazione, è una strana sensazione in un bagno di sudore. Trasformiamoci allora. 800 24 00 24 per parlare del vostro corpo che cambia, che parla, che vi lancia dei messaggi. Allora, abbiamo fatto l'esercizio dello spigolo, la dottoressa Bertelè, che è in linea con noi, l'ha descritto benissimo. Abbiamo scoperto anche che, vabbè, i tacchi alzano le chiappe, ma è la nuca che riesce a valorizzare il décolleté delle signore, quindi anche questa è un'informazione che possiamo fare nostra. Ma io scenderei ancora di un piano, perché vogliamo dimenticarci delle nostre radici? I piedi, la dottoressa Bertelè l'ha detto, basta un appoggio non adeguato e tutto va a rotoli. Quindi affrontiamo il problema dalle radici insieme a un grande esperto, il professor Luca Vagnino, podologo. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno dottoressa Bertelè. Buongiorno. C'è anche Deborah, eh? Ah, anche Deborah, scusate. Allora, buongiorno Deborah. Professore, un appoggio al suolo scorretto si ripercuote ovviamente sul piede, sul ginocchio, sulla colonna vertebrale e oltre, determinando delle tensioni che possono essere causa di numerosi disagi, acciacchi, a partire dalla testa, mal di testa ad esempio, sciatalgia, mal di schiena, dolore, insomma mi fermo perché l'elenco è lungo. Anche con lei una sorta di autotest, di valutazione. Ci accompagna? Assolutamente. Assolutamente, nel senso che io sono d'accordissimo con la dottoressa Bertelè che il corpo è un tutt'uno. Io mi occupo dei piedi come podiatra e podologo, ma con una visione globale, tant'è che ho coniato la parola podolistica come emblema di una filosofia in cui uno non deve guardare solo il piede, ma deve vedere come il piede si inserisce in un contesto di catene articolari e muscolari che possono sia essere influenzate dal piede che influenzare il piede stesso. Quindi già capire se un piede è un attore, uno spettatore di un problema, direi che è fondamentale al di là del problema che può apparire al singolo piede. Certo. E da questo è assodato che un sacco di cose che stanno sopra il piede, che ricordo è l'unico punto di appoggio di tutto il nostro corpo col mondo che ci circonda, e quindi sono le nostre radici, evidentemente un'alterazione dell'appoggio del piede non può non influire su quello che sta sopra, dalla caviglia al ginocchio, alle anche e alla schiena, fino alle cervicalgie, perché sembra assurdo, ma se c'è un problema di differenze di funzionalità o di eterometria degli arti inferiori dei piedi, un semplice dolore, non so, cervicale può avere le sue radici proprio nei piedi e quindi non va sottovalutato, perché quando tu fai della riabilitazione di qualunque tipo, che sia appunto fisioterapica, osteopatica, chiropratica, rieducativa, ma il problema si ripresenta in continuazione, bisogna chiedersi quale può essere una causa che non è stata presa in considerazione. E purtroppo nella cultura italiana medica e sanitaria il piede è proprio la cenerentola di queste cose, quindi non si tende a guardarlo o a vedere se è una relazione. Ci dice, professore, noi stiamo quasi chiudendo, ma abbiamo anche degli ascoltatori da far intervenire, tre segnali da non sottovalutare del nostro piede: a livello della forma, a livello della sensibilità, intesa anche dei messaggi che ci manda, magari dolori o di alterazioni che vediamo nella forma o a livello proprio della cute. Grazie. Ecco, brava Nicoletta. Allora, la prima cosa è guardarsi i piedi, cioè cominciare a notarli e a vedere se sono simmetrici o asimmetrici. Quando vediamo un piede diverso dall'altro, nella sua forma già, c'è qualche cosa che potrebbe essere da controllare negativo. Okay. Questo è il primo aspetto. Forma. La forma. Il secondo aspetto è invece la camminata, perché uno potrebbe avere anche una forma apparentemente normale, ma poi camminando il piede si comporta in maniera completamente diversa uno dall'altro. E quindi o osservarsi a uno specchio mentre si cammina, o farsi osservare, o poi alla fine farsi visitare da un bravo podoiatra che capisca se dal punto di vista funzionale, quindi non strutturale, c'è un'alterazione che può influire su tutto. Il terzo? Se ce n'è un terzo? Il terzo, ecco, è un messaggio che volevo dire, di non farsi ingannare dagli esami cosiddetti baropodometrici, perché purtroppo è diventato un commercio dove la gente pensa di andare su una pedana colorata che gli dà tanti colorini e quello gli dice se il piede funziona o no. Questo è solo uno strumento di misurazione, non è uno strumento di diagnosi, che va valutato per quello che può essere anche d'aiuto in certi casi, certo, ma che non è uno strumento diagnostico. Quindi non farsi prendere in giro da negozi commerciali che fanno spacciare una visita podoiatrica per un semplice esame di pressione. Quindi aprite gli occhi anche sui vostri piedi. Quindi questo è un po' il messaggio. Grazie professora Vagnina per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e una buona camminata. Grazie a lei, buona giornata a tutti. Dottoressa Bertelè, per lei c'è Franco che ci chiama da Padova. Buongiorno Franco. Buongiorno, buongiorno dottoressa. Semplicemente io passo molte ore alla guida e sono sempre seduto. Perché lei è un camionista, vero Franco? Mi scrivono dal... Sì. Esatto. E io, come altri che passano molte ore sedute dietro un volante, soffro spesso di mal di schiena. Volevo solo sapere se c'è qualcosa che si può fare per rimediare questo inconveniente. Grazie, perché in questo modo, dottoressa Bertelè, a un minuto e mezzo può dare anche, tanti ci chiedono, come meglio disporre la schiena in auto per evitare il mal di schiena da guida. Dottoressa. Dunque, la posizione in auto è fondamentale, perché per persone che stanno tante ore in auto, anche solo per andare al lavoro, ma tanto più chi lo fa per professione, deve fare in modo che, come dicevo prima, siano appoggiati gli ischi. Cioè, nel senso che Ci sono molte macchine, molte automobili ormai che sono regolabili, bisogna cercare di alzare la parte posteriore del sedile. Se non fosse possibile, perché la macchina non lo prevede, l'auto non la prevede, ci sono dei cuscini infatti appositi che noi ad esempio facciamo produrre in ditte della Brianza e sono fatti a cuneo, nel senso un po' più alti dietro, un po' più bassi davanti. In modo questi, che gli ischi possono appoggiarsi anche allora, alla... Se gli ischi appoggiano, c'è proprio un riflesso che si chiama di raddrizzamento della colonna vertebrale, la colonna vertebrale si rettilinizza, cioè si verticalizza, a quel punto lo schienale del sedile è importante tenerlo verticale, cioè in modo che anche il collo, come dicevamo prima, sia in assi con la schiena, perché sennò stiamo indietro col sedile, il collo va in avanti e si affatica enormemente la regione cervicale e la regione lombare. Quindi l'ideale è avere un sedile alto, un po' più alto dietro, lo schienale abbastanza verticale, ma senza mandarlo in iperlordosi la schiena, cioè senza gonfiare la regione lombare. Certo. Ecco, e appoggiare la testa all'appoggiatesta, anche per sicurezza, in modo che se c'è un tamponamento, certo, è comunque già appoggiata. Ecco, questo permette di liberare le spalle e quindi poi non avere la protrusione delle spalle, ecco, che e poi e soprattutto poi non avere mal di schiena. Su questo tema ci ritorneremo. Consigliamo anche al nostro amico camionista l'esercizio dello spigolo. Non sa quanti messaggi sono arrivati, quanto deve durare l'esercizio, addominali sì, addominali no, va bene con le scarpe, senza scarpe. Senza scarpe. Senza scarpe, quanti minuti? Un minuto, due minuti? Qualche minuto. Qualche minuto. A disposizione, diciamo tre, può anche scivolare in su e in giù lungo lo spigolo, cioè, ma basta anche un 30 secondi per rimettersi in posizione. Perfetto, dottoressa Bertelè, la vogliamo presto qui, intanto grazie, buon grazie esercizio voi dello spigolo a tutti, esercitatevi nel weekend, noi torniamo lunedì come sempre, buon weekend a tutti.